Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Che cosa sarà dei miei cari? Cos'è capitato loro? Cosa sarà di me? Come farò a pagare l'albergo? Io non ho il becco di un quattrino. Come può essere capitato tutto questo? Tutto questo a causa di un piccolo pezzo di pelle marrone. Mi chiamo Rosalba, ho 63 anni, sono psicoterapeuta e vivo a Torino. L'aspetto dell'isola, quando l'indomani mattina salii sul ponte, era completamente cambiato. Sebbene la brezza fosse del tutto cessata, avevamo percorso un buon tratto durante la notte e adesso eravamo col mare in bonaccia, circa mezzo miglio a sud-est della piatta costa orientale. Boschi grigiastri ricoprivano gran parte della superficie. Questa tinta uniforme era interrotta nella zona più bassa da strisce di sabbia gialla e da un gran numero di alberi altissimi della famiglia dei pini che ora isolati, ora a gruppi sovrastavano gli altri, ma il colore dominante era monotono e triste. L'ispagnola rollava sul mare gonfio con gli ombrinali sommersi, le rande squassavano i bozzelli, il timone sbatteva qua e là e tutta la nave scricchiolava, gemeva e sussultava come una macchina diabolica. Io dovevo tenermi stretto ai paterazzi e il mondo girava vorticosamente davanti ai miei occhi, perché sebbene fossi un marinaio abbastanza esperto durante la navigazione, quello stare immobili a farsi sballottare come una bottiglia era una cosa che non ho mai sopportato senza avere la nausea, soprattutto di mattina a stomaco vuoto. Ecco, forse fu l'aspetto dell'isola con i suoi boschi grigi e malinconici, le selvagge vette di roccia e coi frangenti che vedevamo spumeggiare e rimbombare contro la riva scoscesa. Fatto sta che nonostante il sole splendesse luminoso e cocente, gli uccelli marini pescassero e stridessero intorno a noi e si poteva quindi pensare che chiunque sarebbe stato contento di scendere a terra dopo tanto tempo in mare, io mi sentii mancare e fin dalla prima occhiata odiai la sola idea dell'Isola del Tesoro. Avete ascoltato L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Niente, ci vorrebbe lo speaker qui ovviamente, ma riprovo. Avete sentito estratti dall'Isola del Tesoro. Buongiorno a tutti, questa è sempre Radio 24, noi continuiamo a raccontare storie, ma in questo secondo giorno di settimana dedicata all'avventura io continuo a leggervi pezzi tratti appunto da questo fantastico romanzo. Questo capitolo è proprio l'inizio, questo è l'inizio del capitolo 13 che si intitola Come cominciò la mia avventura a terra. Jim, che è il protagonista, è finalmente sulla nave, è arrivato, è ancora tutto tranquillo, qui ancora la ciurma è più o meno, sta tutta dalla stessa parte, stanno per scendere all'Isola del Tesoro e domani, o se avete voglia, scaricatevi il libro, compratevelo e scoprirete che cosa accadrà. 349-238-6666, la storia di oggi è una storia d'avventura abbastanza particolare, nel senso che se uno dice che storia è, ma è la storia di una coppia di signori che va a fare una vacanza in un luogo dove giocano a golf. E cosa c'è di avventuroso in questa storia? Di fatto non c'è nulla. Tutta la storia avviene nella mente della protagonista, cioè nella mente di Rosalba. Sapete che ogni tanto succede, no? Che uno si fa, alcuni li chiamano film, alcuni li chiamano viaggi, comincia a pensare nella tua testa quello che può succedere a un proprio caro, alla propria fidanzata, al proprio figlio, e da lì la mente è irrefrenabile. E forse perché di fatto noi abbiamo una sorta di esigenza d'avventura o di disavventura e ci creiamo una storia vera e propria. 349-238-6666 o il profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24. Nando scrive: una volta ho pensato che mia sorella fosse caduta in motorino, io allora uscii con il mio 50 e trovai davvero un incidente, non era lei ma quasi rimasi secco. Ecco, una roba tipo questa, cioè che tu sei a casa e lentamente cominci a pensare: ah, è successo questo, allora poi è successo quest'altro, ecco perché non chiama, ecco perché non arriva. Ecco, questa è esattamente la disavventura che accade nella testa di Rosalba. Vi ricordo 349-238-6666 sono gli sms, abbiamo anche un profilo Twitter ovviamente del programma Voi Siete Qui R24 o Voi Siete Qui Radio 24. Tenetevi forte, state per sdraiarvi su un letto dopo una bella spa e sta per succedere tutto. È una splendida giornata di sole agostano. Stiamo partendo per alcuni piacevoli giorni di vacanza lontano da tutti. Vogliamo trascorrere solo qualche giorno a praticare lo sport che entrambi amiamo moltissimo, il golf. Mio marito G ha fatto una ricerca accurata per trovare campi da raggiungere con facilità. Non abbiamo più voglia di macinare tanti chilometri in auto. Desideriamo arrivare presto e divertirci subito. La prima meta è a circa un'ora di autostrada in una struttura che comprende, oltre al campo da golf, un confortevole albergo con tanto di spa. Sono le 17, mancano pochi chilometri all'arrivo. Mio marito prende il portafoglio per pagare il casello autostradale, ma dov'è? Non lo trova. Fermiamo l'auto per cercare con cura. Nulla. Il portafoglio con tutti i documenti e i soldi è rimasto a casa. È da tanto che aspettavo questa vacanza golfistica, mio marito lo sa bene. Già l'anno scorso ci avevamo provato, ma poi io sono stata male. Un banale mal di schiena che impedisce ovviamente di giocare a golf. E tutto è stato rimandato. G è molto generoso, soprattutto con me. Così mi propone di portarmi alla nostra prima destinazione per prendere possesso della camera e infilarmi dentro una vasca idromassaggio fino al suo ritorno. Lui sarebbe rientrato a casa per recuperare documenti e soldi. Nel giro di poche ore saremmo tornati insieme. Io quindi accetto di buon grado e lo ringrazio per l'attenzione. L'albergo è fantastico, immerso nel verde, circondato da colline e pinete. E lì, sotto di me, un enorme verdeggiante campo da golf. Vedo il green della buca 18 con la sua bella bandierina rossa che sventola. Se ne fossi capace, dipingerei un quadro. Saliamo insieme nella stanza elegantemente arredata e con ogni tipo di comfort. Allora, G è Guido, mio marito, e siamo sposati da 32 anni esattamente. Ci salutiamo, lo lascio a malincuore, non mi piace restare senza di lui. La mia coscienza non è veramente a posto, ma l'idea di usufruire di quell'unica occasione per godermi le coccole dell'idromassaggio ha il sopravvento. In fondo so che tra circa un paio d'ore saremo di nuovo insieme. Disfo le valigie, giro per la stanza, faccio alcune foto, il panorama è lì, proprio davanti a me. E poi scendo con tanto di costume da bagno per raggiungere la zona relax. Di vasche per l'idromassaggio ce ne sono diverse, ciascuna con particolarità da sperimentare. E io le provo tutte. Sto bene, mai sentita meglio. Guardo l'orologio, Guido starà per arrivare. Salgo in camera, mi infilo nel letto e aspetto in compagnia di una piacevole lettura. Sono quasi le 7 di sera. Guido sarà qui a momenti. Intanto potrei telefonare a casa. Lì ci sono i miei genitori. Mi diranno se Guido è arrivato e da quanto tempo è ripartito. Chiamo casa. Il telefono squilla, ma nessuno risponde. Non sono preoccupata. Forse sono usciti. Saranno andati a prendersi un caffè nel chiosco sotto casa. In fondo stanno bene anche se sono anziani. E poi comunque sono insieme. Loro stanno bene insieme. Sono una bella coppia di ultra ottantenni. Quasi in buona salute, se non fosse per qualche acciacco dell'età e le due protesi, una per ciascuno, che si portano appresso e che impedisce loro di fare lunghe camminate. Già, posso chiamare sul cellulare, così li saluto ancora una volta. Chiamo. Il telefono squilla, ma ancora non risponde nessuno. Now don't you ever make her cry. Non sono preoccupata. Sono anziani, non sentiranno il suono del cellulare. La mamma lo mette sempre in fondo alla borsa con mille altre cose. Fazzolettini di lino ricamati, caramelline d'emergenza ipoglicemica, papà è diabetico, scatoletta delle medicine, qualche foglio di giornale non ancora letto e qualche altro foglietto sparso. Non importa, li sentirò più tardi. Guido, tanto, sarà presto qui. Intanto comincio a fare qualche conto con l'orologio. Dunque, mi ha lasciata alle 17, per ritornare a casa ci vorrà una bella oretta. Sali in casa, dai qualche spiegazione, cerca l'oggetto dimenticato, saluta tutti, risali in auto e riparti per un'altra bella ora e mezza. Il traffico sarà anche aumentato. È l'ora di punta, anche se questo è periodo di ferie, ci sarà pure qualcuno che lavora. Quindi un po' di coda al casello autostradale ci sarà. Intanto sono quasi le 20 e Guido non c'è ancora. Tranquilla, starà per arrivare. Molto facilmente è sotto nella hall dell'albergo per le procedure di registrazione. Va bene, per non farmi prendere dall'ansia chiamerò nostro figlio, è in viaggio con la fidanzata, le sue vacanze sono finite e deve studiare, l'università è impegnativa. Chiamo, il telefono squilla, ma lui non risponde. Non sono preoccupata, la strada che deve percorrere è piena di gallerie, sicuramente è sotto ad una di queste e il telefonino lì non prende. Io non sono affatto ansiosa, né in quel momento devo dire provavo ansia. Poi a ripensare a tutta la questione mi è venuto da immaginare, se ci fosse uno dei miei pazienti che partono con l'ansia, probabilmente tutta questa faccenda l'avrebbero vissuta in maniera molto più drammatica. Il traffico è sostenuto, siamo nella settimana di Ferragosto, il mondo si sposta, viaggia verso quei pochi giorni di vacanza possibili, pochi ma buoni. Corri, corri che devi arrivare presto per non perdere nulla. Insomma, non sono preoccupata. Lui guida bene, è prudente anche se è un ragazzo giovane con un'auto che può correre, lui però non può correre, ci sono le curve, tante curve, non può correre. Io sono qui nel mio morbido letto d'albergo in una lussuosa stanza. Sto bene, devo solo aspettare. Aspettare quanto ancora? Perché non riesco a rintracciare nessuno? Cosa sarà capitato a Guido, che non è ancora qui? Cosa sarà capitato a quei due vecchietti soli come dei cani in un paese che conoscono poco? Perché mio figlio non risponde? Non ci saranno mica solo gallerie in quella stramaledetta strada piena di curve. Riprovo a chiamare. Il cellulare di Guido ce l'ho io, nella mia borsa. Ma perché non se lo tiene in tasca, come fa ogni persona di buon senso? A cosa serve un cellulare se non ad essere rintracciabile da chi ha bisogno di te, di sentirti, di sapere dove sei? Perché stai tardando, Guido? Sei un disgraziato, appena arrivi mi sentirai. Riprovo a chiamare i miei genitori, ancora nulla. Eppure qualche telefonata l'avranno ricevuta, no? C'è quell'amica che li chiama quotidianamente per parlare di non so che cosa, sempre, tutti i giorni. Possibile che proprio oggi non li abbia chiamati? Possibile che dopo quella chiamata dell'amica mia mamma, sempre previdente, non abbia pensato di tenerlo lì sul tavolino del bar accanto alla tazzina del caffè, casomai nostra figlia ci chiamasse? Riprovo a chiamare il mondo che conosco. Nessuno mi risponde. Sono sola, in un luogo che non conosco, dove nessuno sa chi sono, senza soldi, dove nessuno mi può cercare perché nemmeno io sapevo che ci sarei arrivata. No, non sono preoccupata. Sto letteralmente impazzendo. Che cosa sarà dei miei cari? Cosa è capitato loro? Cosa sarà di me? Come farò a pagare l'albergo? Io non ho il becco di un quattrino. Ma come può essere capitato tutto questo? Tutto questo a causa di un piccolo pezzo di pelle marrone, il portafoglio. Per colpa di un piccolo pezzo di pelle marrone la mia vita è a pezzi. Il mio cuore è a pezzi. Il mio futuro è a pezzi. Sto male, l'angoscia sale. Non so che fare, a chi chiedere aiuto, a chi telefonare. Già è un pezzo che non riprovo a telefonare. Chiamo casa, i miei genitori rispondono. Sono allegri, sereni. Mi dicono che Guido è partito da poco e che loro sono appena riusciti ad incrociarlo sul pianerottolo di casa. Mi abbracciano tanto e mi augurano buona vacanza. Bene, se non altro loro ci sono. Riprovo a telefonare e finalmente mio figlio ha il cellulare che squilla. Risponde lei, la sua fidanzata, mi saluta con cordialità. È una cara ragazza. Mi dice che lui non può rispondere, sta guidando, ma che se ho delle comunicazioni da fare, ci pensa lei a fare da portavoce. Insomma, anche loro stanno bene, sono felici, si amano. Io comunico loro che siamo arrivati bene a destinazione e li saluto. L'unico che non posso chiamare sei tu, amore mio. Mi manchi. Dove sei? Perché non sono venuta con te? Perché sono sempre così egoista? Chi se ne frega della spa? Io voglio stare sempre con te. Ho paura, sono un po' più tranquilla, ma ho ancora paura. E poi sento dei passi. Sento bussare alla porta. E sei tu, che sei arrivato. Sei stanco, ma sei felice per me. E io non ti dico nulla. Non dico nulla dell'angoscia che ho vissuto in quelle poche ore. Non piango, non mi arrabbio. Sono solo stanca. Stanca e felice. In fondo tutto era a posto, anche se io ne ero consapevole. Tutto è tornato alla normalità. Sì, in fondo questa non è stata altro che una piccola avventura. È Ed eccoli qui nella foto che trovate anche in questo mese di luglio sul nostro sito, radio24.it, la nostra pagina. Voi siete qui. Sono ovviamente entrambi, sono loro due, sono Rosalba e il suo compagno. Sono seduti serenamente all'aperto in un bar con delle persone dietro. A guardarla c'è qualcosa di strano in Rosalba. Dice: che strano, perché su degli occhiali da sole e sotto sembra avere delle occhiaie. E invece no, semplicemente ha sotto gli occhiali da vista e sopra gli occhiali da sole. Pronto, Rosalba? Sì, eccomi, sono qua. Ciao. Così, Matteo. Perché dicevo, ma che strano, ha delle righe sotto, poi invece allargando la fotografia si vede che hai sotto, giustamente, perché non tu, insomma, fare gli occhiali da sole con le lenti graduate ne perdi uno ogni 15 giorni, quindi uno semplicemente così. Ce le si mette sopra. Senti, Rosalba, grazie per la tua storia, che davvero in questa settimana di racconti di avventura per noi ha rappresentato quella sorta di avventura nella mente, no? Cioè uno nella mente si fa un film completo, sì, proprio, che c'ha anche il finale e si disspera come se fosse accaduto tutto, poi invece semplicemente basta il telefono che prende, uno che risponde, l'altro che arriva in camera e tutto, certo, si risolve in un attimo. Però tu quella sensazione lì l'hai vissuta totalmente. Allora, io l'ho vissuta nel momento in cui è finita, perché al momento la subivo, ma abbastanza tranquillamente. Diciamo che è stato un gioco di coincidenze, perché proprio nel giro di 10 minuti la faccenda si è svolta tutta. Io non riuscivo a mettermi in contatto con nessuno, né con mio, certo, figlio, né con mio marito, né con i miei genitori, ed ero in questo posto dove non avevo né documenti, tantomeno soldi, e io non sapevo dove sarei andata, perché era una sorpresa che mio marito mi ha fatto, perché quel compagno della fotografia è appunto mio marito. Ah, ok, non avevo capito se era marito oppure era... Cioè, marito, okay. E poi nel giro appunto di brevissimo tempo mi sono messa in contatto con tutto il mondo, e in quell'istante mio marito bussa alla porta della stanza ed era arrivato. Senti, tra l'altro, a proposito di avventure, Rosalba, io ho detto compagno perché chiaramente, perché sono, diciamo, è una deformazione certo, professionale, ma per semplicemente perché tu parli di lui con un amore che è freschissimo, cioè che da quanto state insieme? E beh, sono ormai, allora, 32 anni di matrimonio, più 5, diciamo, di fidanzamento conoscenza, quindi vedi tu. Quindi è un amore che si mantiene con una freschezza, come se fosse un'orata, mi è venuto il paragone del pesce fresco, perdonami, però... Certo, è un amore profondo, ecco, non è più l'innamoramento iniziale, si è trasformato, è diventato qualcosa di diverso, è questo amore profondo che ci lega molto. Dove vi trovavate? Questo posto magnifico. Allora, noi eravamo eravamo vicino a Saint-Tropez, eravamo in Costa Azzurra, a noi piace molto girare per la Provenza, giocare a golf, e quindi eravamo in quella situazione. Ok, quindi in un posto magnifico. Dove abitate? Invece, Rosalba, me lo ricordi, scusa? Noi abitiamo a Torino. Ah, ok, sì, ma non hai per nulla però accento torinese. Ah, dici? Beh, meno male, questo mi tranquillizza, perché normalmente invece si scopre subito. Che cosa fai invece di bello nella vita, Rosalba? Lavori ancora? Sì, sono psicoterapeuta, è un lavoro che amo molto, mi piace molto, ogni volta è una scoperta, e devo dire che quella storia che ho scritto forse è proprio la luce del mio lavoro, perché quando la situazione si era risolta mi sono resa conto di come una persona un pochino più instabile emotivamente avrebbe potuto davvero andare un po' in panico. Ecco, ma infatti, Rosalba, e poi ti saluto, però questa cosa mi è sempre incuriosito molto. Le persone che fanno il tuo mestiere sono in grado di utilizzare le tecniche professionali su di sé? Cioè, come dire, di cercare di analizzare le cose al punto da trovare un bandolo della matassa, dare ordine alle cose, eccetera, eccetera. Solo in parte, Matteo, guarda, perché poi siamo, per fortuna, io dico, persone assolutamente normali, con i nostri limiti, le incapacità anche di leggerci dentro. Io sono madre di un ragazzo di 25 anni e la mia maternità l'ho vissuta, io continuo a dire, per fortuna, con tutti i miei errori, quelli che poi magari scoprivo dopo, alcuni non ancora forse scoperti adesso. Okay, quindi diciamo che in generale da psicoterapeuta vale sbagliare, giusto? Assolutamente. Perfetto. Sì, ed è anche molto sano. Benissimo, questo ci rincuora tutti. Rosalba, ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Saluta tuo marito. Grazie a te, Matteo, grazie. Ciao, grazie. 349-238-6666. Carlo scrive: io nella mia testa ero arrivato fino in Australia a soccorrere mia moglie che era là per lavoro. Ecco, una roba del genere più o meno. Poi invece mi auguro che non fosse successo niente, Carlo. A proposito invece di storie da leggere o di avventure da vivere standovene seduti o semplicemente sdraiati sul letto come Rosalba, se avete voglia di sapere che cosa è accaduto durante tutta questa stagione di Voi Siete Qui, scaricatevi il nostro ebook. Ci sono 97 storie, non chiedetemi perché 97 e non 100, 97 storie da leggervi comodamente, gratuitamente scaricabili attraverso il nostro sito, attraverso chiaramente Apple Store, tutto quello che volete sui vostri smartphone o tablet, altrimenti dal sito di Radio 24, la nostra pagina Voi Siete Qui, eccola qui, ci scrollate tu, a metà più o meno a sinistra scarica l'ebook di Voi Siete Qui, è gratis, ve lo scaricate e ve lo leggete per tutto il mese luglio, agosto, quando andate in vacanza. Grazie a Paulino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hina, grazie soprattutto a Rosalba, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa.